Salve tutte e tutti, stasera, oggi è la decima puntata di Ururu, Musica e Notizie dell'Africa. Oggi ci spostiamo in Sudafrica, quindi ascolteremo musica sudafricana e parleremo di un quartiere di Città del Capo che è stato un esemplare. Per l'apartheid e cosa è voluto dire per il Sudafrica. Due generi da un punto di vista musicale diversi, uno è il genere a cappella e l'altro è Tshe, Township Jaiva, ma accomunati dall'essere una musica popolare largamente cantata e danzata in tutto il Sudafrica e che diciamo, viene appunto dagli strati più popolari sudafricani e in particolare dai ghetti, dalle township, tant'è che per esempio per quanto riguarda la musica a cappella ogni ghetto, ogni township ha i suoi cori, per esempio famosissimi Soweto Gospel Choir, anche se pur un coro gospel, oppure i Kayelitsha Star a cappella. E dall'altro lato il TJ, la Township Jaiva, un'evoluzione della musica jazz che è passata attraverso varie fasi fino ad arrivare a questa sorta di danza, diciamo, e nello stesso momento di musica molto, molto ritmata. E ambedue, tra l'altro, seppur la musica a cappella è iniziata già negli anni 30, mentre invece la Jaiva successivamente, entrambe sono state bandite dal regime dell'apartheid e si sono sviluppate in particolar modo negli anni 70-80, diciamo una sorta di musica underground sostanzialmente. Per quanto riguarda la musica a cappella, vi facciamo sentire tre dei pezzi più importanti, più conosciuti e più cantati, diciamo, in Sudafrica. Sono pezzi che hanno un'origine particolare e che nello stesso momento fanno parte del patrimonio popolare, e quindi le versioni di questi pezzi sono molteplici e innumerevoli. Il primo pezzo, che ha una storia tra l'altro travagliata e particolare, è Umbube, è una canzone che successivamente è stata riprodotta, rifatta in particolare sia da Pete Seeger, sia successivamente è stata una delle canzoni, la colonna sonora del Re Leone di Walt Disney. È appunto una canzone che, come dire, ha una travagliata sostanzialmente, e che diciamo, nel corso degli anni ha subito dei rifacimenti, ma che diciamo, ha avuto come dire, un finale abbastanza strano e che ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Sostanzialmente, una volta, tanto tempo fa, si sta parlando del 1939, un signore di nome Solomon Linda, un mandriano Zulu, stava in piedi davanti a un microfono nell'unico studio di registrazione del Sudafrica. All'improvviso, semplicemente aprì bocca e ne uscì una matassa di 15 note, e così prese il volo questa canzone. Successivamente è stata appunto riprodotta, rifatta, ricoverizzata, diciamo, da altri musicisti sudafricani, e successivamente appunto la versione più famosa è The Lion Sleeps Tonight dei Tokens. E da lì è nata una diatriba che si è trascinata fino ai giorni nostri. Vi facciamo sentire appunto la canzone. Questa è un bube di Solomon Linda. We move them. Appunto un bube di Solomon Linda, che ha avuto appunto un successo, è diventato un hit nel mondo dopo appunto la pubblicazione, diciamo, all'interno della colonna sonora del Re Leone. Ma Solomon Linda è morto senza un soldo in tasca. Ci sono voluti 40 anni perché la famiglia di Solomon Linda, che era appunto, come ha detto precedentemente, un mandiano analfabeta di etnia Zulu, riuscisse a ottenere il risarcimento dalla Disney per la canzone registrata in Sudafrica nel 1939 e trasformatasi successivamente in un successo negli anni 50 e resa appunto ancora più famosa dai film d'animazione. E l'African National Congress, tra l'altro, ha proposto un emendamento alle leggi sulla proprietà intellettuale proprio per evitare che soggetti, le major, come per esempio in questo caso la Disney, sfruttino le canzoni della tradizione popolare sudafricana, perché appunto un bube non è l'unica canzone che ha corso questo rischio, e appunto si sta cercando di iscrivere questa norma all'interno. Non è tanto una sorta di copyright quanto una sorta di risarcimento per chi ha inciso tanti tempo fa questo tipo di canzoni, e soprattutto per opporsi allo strapotere delle major cinematografiche, anche musicali, che da un lato vogliono e proteggono a tutti i costi le loro canzoni, e dall'altro saccheggiano il patrimonio popolare, in questo caso il patrimonio popolare del Sudafrica. Sì, allora all'inizio vi dicevo che oggi parleremo di un quartiere di Città del Capo che è stato un simbolo per la città e per tutto il Sudafrica, cioè il District 6. Il District 6 fu costruito all'epoca d'oro del colonialismo britannico, ossia nella seconda metà dell'Ottocento, e occupa uno splendido sito su un pendio sotto la Table Mountain, e dietro i moli del porto di Città del Capo. È adiacente sia all'area centrale dell'insediamento bianco originario, sia all'attuale centro degli affari, e quindi naturalmente di grande interesse speculativo per aree edificabili. E quindi rappresentava sicuramente un boccone d'oro per i sudafricani bianchi. Ma Città del Capo non erano solo i bianchi a considerarla la loro città, ma soprattutto i meticci. Meticci che erano frutto di mescolanze razziali avvenute a partire dal 1653. E che hanno vissuto nella città fin dalla sua fondazione e giustamente accampano diritti pari o superiori a quelli dei bianchi su essa. Il loro attaccamento affettivo si concentra proprio sul District 6, in primo luogo perché la sua popolazione, che divenne ben presto emblema della mescolanza multirazziale di un grande porto di mare e del mosaico delle grandi delle varie comunità etniche originarie di quell'area, era formata per il 95% da meticci e malesi, anche se accanto a loro vi si stabilirono anche neri, bianchi, indiani e cinesi. La composizione sociale di District 6 era proletaria. Gli abitanti lavoravano nel porto, nel centro commerciale, ma anche il variegato settore economico tipico delle città africane, e cioè artigiani, sarti, falegnami, cucitrici, barbieri che lavoravano a casa. E il prossimo pezzo è sempre una canzone a cappella, Senzenina. Il titolo è scritto a volte Senzenina, tutto attaccato, a volte Senzenina, con il punto interrogativo, che in italiano significa che cosa abbiamo fatto, ed è una canzone popolare anti-apartheid sudafricana. È scritta in Xhosa e Zulu, che sono due delle 12 lingue che sono in Sudafrica, per inciso, uno dei pochissimi, no, anzi l'unico paese al mondo in cui ci sono 12 lingue nazionali, proprio perché per evitare che ci sia una un'etnia, diciamo, prevalga su un'altra, anche attraverso soprattutto attraverso la lingua. E appunto Senzenina è scritta in lingua Xhosa e Zulu ed è cantata comunemente in occasione delle dimostrazioni, ma anche in chiesa o comunque nelle attività collettive. L'attivista Dumandluvu, un attivista sudafricano anti-apartheid, ha paragonato l'influenza di Senzenina a quelle delle canzoni di protesta tipo We Shall Overcome. E la canzone è nota almeno a partire dagli anni 50 e ha raggiunto la massima popolarità durante gli anni 80, anche se appunto le origini della canzone stessa non sono chiare. Albert Nyathi, che è un poeta dello Zimbabwe, ne ha rifatto il testo il giorno della morte dell'attivista Chris Hani. Tuttavia la canzone di Nyathi ha una melodia e un testo diverso, appunto. La canzone è conosciuta appunto soprattutto in Sudafrica, ma ha un certo grado di popolarità anche all'estero ed è presente nella colonna sonora del film antirazzista The Power of One. Mentre una versione registrata, famosissima, è stata cantata ai funerali di Steve Biko. Noi vi facciamo ascoltare il pezzo tratto da un altro famosissimo film anti-apartheid, My Country, e questa è la versione eseguita da innumerevoli, una decina di personaggi, di soggetti, fra cui Princess Soy Soy Geza, che è uno dei più famosi cantanti a cappella sudafricani, Mandla Lande, eppure il soveto Gospel Choir. Ed è una canzone con un'atmosfera veramente, veramente particolare. E questa è Senzenina. Senzenina. Senzenina. Senzenina. Senzenina. Senzenina. Senzenina. sei tu. Solo sei tu. Ubunya. Senza nina. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Questa era appunto Senzenina, il brano è tratto direttamente dal film In My Country, e quello, le parole abbiamo sentito un 40 secondi prima della fine del brano, penso che tutti l'abbiano riconosciute, era Nelson Mandela, l'intervento di Nelson Mandela appena uscito dal carcere, in cui appunto esorta a unirsi e a continuare a combattere contro l'apartheid fino alla liberazione definitiva del popolo nero sudafricano. Allora, ricordiamo i nostri social, il nostro sito dove potete ascoltarci in streaming, wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, Facebook su facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail postawombat@insiberia.net. Sul nostro sito ci sono varie sezioni, guardatele tutte, perché c'è la sezione delle trasmissioni dove ci sono elencate tutte le trasmissioni e il tipo di musica che fanno. E siccome fortunatamente ce ne sono di nuove, magari potete vedere che si comincia anche delle trasmissioni di musica che vi piace. Poi c'è la parte del palinsesto, dove trovate l'ora e il giorno in cui le trasmissioni vanno in diretta, e poi invece c'è la parte podcast, dove potete trovare, quindi ascoltare o scaricare le trasmissioni che vi siete persi. Quindi mi raccomando, wombat.noblogs.org. Il prossimo pezzo è anch'esso un pezzo particolare, un pezzo popolare conosciuto in tutto il Sudafrica, anzi probabilmente il più conosciuto è Nkosi Sikelel' Iafrika, che è attualmente l'inno nazionale sudafricano, ma questo a noi ci importa poco sostanzialmente. Quello che importa è che questo inno, questa canzone già negli anni 20 era una canzone popolarissima e divenne il più importante canto di lotta contro l'apartheid, tant'è che già nel 1925 venne scelto come inno ufficiale dell'African National Congress da Nelson Mandela, e due anni successivamente vennero aggiunte ulteriori strofe al testo in lingua Xhosa, il testo è tutto in lingua Xhosa, che appunto ancora di più ponevano l'accento sulla necessità della lotta di liberazione del popolo nero sudafricano. La prima registrazione dell'inno fu già nel 1923, chiaramente in esilio, in questo caso a Londra, e fu registrata da Sol Plaatje, uno dei più celebri scrittori sudafricani del periodo e membro fondatore dell'Africa National Congress. E successivamente, durante gli anni, ne furono pubblicate versioni un po' in tutte le lingue sudafricane, delle etnie sudafricane, nel 42 in Soto, successivamente in Zulu, eccetera, eccetera. Nel 1995, dopo la fine dell'apartheid e della fiducia al governo dell'African National Congress, Nkosi Sikelel' Iafrika divenne l'inno nazionale del Sudafrica, ma in questo caso non si tratta di un inno paludato che esalta la nazione, il nazionalismo e via dicendo, è invece un inno una canzone di lotta che è diventata un inno nazionale. Quello che vi facciamo ascoltare, almeno per come la pensiamo noi, è la versione più bella di questo inno. Si tratta, è tratta da un concerto organizzato, fatto diciamo ad Arare nel 1987, prima appunto che fosse la liberazione di Nelson Mandela e la conseguente sconfitta, diciamo, almeno a parole, diciamo, dell'apartheid in Sudafrica. E appunto venne cantato durante una dei più grandi raduni anti-apartheid, in questo caso con la particolarità che fu fatto in un paese direttamente confinante con il Sudafrica. Il concerto si tenne al Rufaro Stadium di Harare, uno stadio famosissimo perché già sei anni prima aveva ospitato concerto di Bob Marley per l'indipendenza che celebrava l'indipendenza dello Zimbabwe. In questo caso chi canta Nkosi Sikelel d'Africa sono Miriam Makeba, Lady Sweet Black Mambazo, un altro gruppo famosissimo in Sudafrica, le cui esecuzioni sono prevalentemente a cappella, e Paul Simon. Questo è appunto un Nkosi Sikelel Africa. Se voi vedete il video del film, se voi vedete il film, vedete l'intero stadio che canta a pugno chiuso Nkosi Sikelel Africa. Going to close by singing the African national anthem, Nkosi Sikelel Africa. God bless Africa. Africa. asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we'll kneel before you, Father, appealing, asking for peace. Questo era appunto un Così Sikelele Africa, cantato da Miriam Makeba, dai Sweet Black Mambazo, insieme diciamo a tutti i partecipanti, tutti quelli che erano presenti al concerto al Rufaro Stadium a Harare in Zimbabwe. Vi diciamo i prossimi appuntamenti. E già domani all'Emerson, al centro sociale, Soul Time All Nighter, sarà una serata soul anche per diciamo, ripuntualizzare, per dare informazioni rispetto alla nuova trasmissione che è già partita da due settimane, Soul Time, e appunto c'è una serata interamente Soul Time All Nighter, con gli Emerson Setters e il New Color, un gruppo musicale di Bologna. Invece nei prossimi giorni, in particolare giovedì 9 febbraio, sempre all'Emerson, un concerto organizzato dal collettivo Nuovi Rumori, che sostanzialmente è un collettivo che organizza e che gestisce i concerti, molti dei concerti all'Emerson, che gestisce anche diciamo in generale la parte musicale del centro sociale, con concerto in gruppi provenienti dagli Stati Uniti. Sabato 11 febbraio alla Polveriera viene presentato il progetto dell'etichetta UR, quindi ci saranno proiezioni, mostre, aperitivo, concerto e DJ set. Mentre invece domenica prossima, sempre alla Polveriera, si terrà il consueto mercato mensile, mercato contadino e delle autoproduzioni, che ormai da diverso tempo, da più di un anno, viene fatto tutte le seconde domeniche del mese alla Polveriera. Allora, riprendiamo il discorso del District 6, perché l'11 febbraio 1966 il District 6 fu dichiarato area bianca nel quadro del gruppo Areas Act, cioè la legge schifosa che fecero in Sudafrica, che praticamente ogni parte del paese era destinata a un gruppo etnico in base al colore della pelle. Naturalmente i bianchi avevano la parte migliore e via via scendere i neri la peggiore. Quindi, poiché il progetto messo a punto per Città del Capo stabiliva che il centro cittadino e le aree residenziali migliori, come sempre, fossero riservate ai bianchi, e che si introducessero separazioni spaziali per distinguere la comunità da quella meticcia, praticamente cominciò il trasferimento in aree della lontana periferia di Città del Capo. La gruppo Areas Act è stata veramente, ha avuto l'effetto più devastante ed esplosivo sulle comunità ed anche la legge che ha suscitato maggior rancore e indignazione, naturalmente. Perché? Perché è stata una misura di vasta portata, volta a controllare su basi razziali l'occupazione e la compravendita di proprietà a scopo residenziale e commerciale in tutto il Sudafrica. Quando il progetto divenne legge nel 1950, si istituì in dicastero, cui si demandò il compito di suddividere tutti i centri abitati, urbani e rurali, secondo principi razziali, e di emettere dei permessi che autorizzavano i vari membri dei singoli gruppi razziali a risiedere o svolgere attività economiche esclusivamente nelle aree riservate al loro gruppo di appartenenza. Il prossimo brano invece lasciamo il genere a cappella e ci trasferiamo, diciamo, cominciamo a sentire i brani Jive o Township Jive, che viene abbreviato direttamente in TJ, che è un genere musicale delle township, come abbiamo detto precedentemente, e anche una danza africana che è stata influenzata e che a sua volta ha influenzato la breakdance. La particolarità è che la jaiva è una, oltre a essere una, come dire, una forma musicale e una danza popolare, è emersa tra le proprie radici dalla cultura Shebin nell'era delle township, nell'era dell'apartheid. Le Shebin erano una sorta, quelli si potrebbero chiamare i pub sudafricani, e in questo caso, diciamo, chiaramente pub senza licenza, senza insegna, senza diciamo quella formalità che caratterizza un qualsiasi bar. Sostanzialmente ogni quartiere di una township aveva un proprio posto in cui le persone si ritrovavano la sera dopo il lavoro oppure dopo la cena, e diciamo stavano lì a giocare, in particolare al domino, e a bere questa birra locale che ha un nome particolare, Shebin appunto, da cui poi successivamente per estensione diciamo ha preso il nome anche il luogo dove si beveva questa birra. La Township Jaiva è strettamente associata alla Mbakanga, che è, diciamo, il suono, la musica popolare precedente alla Township Jaiva, e appunto vi facciamo ascoltare il primo pezzo, vi facciamo ascoltare è delle Ngababa Queens, si intitola Maputi, è un pezzo degli anni 50, è una canzone che può essere che è stata ritrovata soltanto ultimamente negli archivi di vecchie incisioni di etichette discografiche sudafricane, ed è stata diciamo messa in una compilation che si intitola Next Stop Soweto, Township Sound from the Golden Age of Mbakanga. Questo appunto è Maputi delle Mbakanga Queens. Thank you. Quindi la distruzione fisica del popolare quartiere, cioè del District 6, e la rimozione coatta dei suoi abitanti verso ghetti per meticci costruite nelle Cape Flats, cioè nelle aree desertiche intorno, spazzate sempre dal vento, quindi il peggior posto di Città del Capo, ebbe inizio nel 1968. Circa 40.000 persone vennero sfrattate dalle loro case e disperse in ghetti lontani, molto chilometri dal luogo dove erano nate e dove lavoravano. Adesso il District 6 praticamente è un terreno abbandonato, una cicatrice nella città di Città del Capo, e costituisce un tributo alla ferrea opposizione della città alla legge dell'espropriazione e allo stesso tempo una testimonianza bruciante dell'opposizione costituita dalle rimozioni coatte imposte dall'apartheid. È stato costruito un museo fatto con gli ex residenti che hanno donato foto e ricordi, che è molto bello. Ci sono le targhe delle vie e tutta questa cosa qui. E il fondo di District 6 sta cercando di mantenere vivo il ricordo del quartiere. Sempre Uru, musica, suoni e notizie dal continente africano, sempre su Radio Wombat, tutti i venerdì dalle 21.30. Ricordiamo il sito wombat.noblogs.org da cui potete ascoltare in streaming le trasmissioni, da cui potete scaricare i podcast e in cui potrete informarvi sulle trasmissioni e conseguentemente anche sul palinsesto, cioè la scansione settimanale in cui queste trasmissioni vengono prodotte sostanzialmente. Chiaramente ci sono anche vari account social, Twitter, Radio Wombat Fi, Facebook, radio-wombat-firenze, la mail posta wombat@insiberia.net. I prossimi pezzi sono due pezzi che danno proprio l'idea, l'essenza del Township Jaiva. Il primo pezzo si intitola Nyam Fenfe e sono Malatini e Mautella Queens insieme, due tra i più importanti musicisti sudafricani. Simon Malatini Nkabinde è un musicista che è nato, ha cominciato a cantare appunto l'Ambakanga, che è la progenitrice, la genitrice diciamo della Township Jaiva, è conosciuto come il leone di Soweto, ha una voce molto, molto profonda, come un basso, è iniziato a cantare fin dagli anni 60 e successivamente ha registrato e si è esibito insieme a Mautella Queens e la Makokna Tsole Band e poi successivamente ancora Malatini insieme a Mautella Queens. E appunto questo brano è insieme a Malatini e Mautella Queens, e Mautella Queens sono famosi, sono un gruppo femminile che si è formato già nel 1964. Originariamente era un gruppo che diciamo accompagnava altri musicisti in studio e consisteva di 5 o 6 sei cantanti donne che appunto accompagnavano altri soggetti, altri cantanti, in particolare cantanti solisti che avevano bisogno di cori. Successivamente ha cominciato a cantare tra sé e la particolarità di Mautella Queens è appunto che i suoi album, i suoi pezzi musicali sono sia a cappella sia in Township Jaiva, e questo si può dire che è diciamo proprio l'essenza di quella che voleva essere, vuole essere la trasmissione di oggi, e cioè dare risalto, andare a scoprire, a esplorare due dei più importanti generi popolari sudafricani. Questa è Nyam Fenfe, Malatini e Mautella Queens. siamo a quella che è l'ultima canzone, l'ultimo pezzo che vi proponiamo, però ne vogliamo anche fare una sorta di spiegazione rispetto al volume, diciamo, alla qualità dei pezzi che avete sentito. Molti, specialmente i primi, sono pezzi veramente datati, con incisioni degli anni 30, degli anni 40 e non solo, quindi di 70-80 anni fa, ma incisioni con mezzi quasi di fortuna sostanzialmente. Ricordiamo che quando è stato inciso un Bube, di cui abbiamo dato proprio la versione originale, la prima incisione è stata fatta, si trattava del 1939 ed è stato inciso nell'Unio Studio di Registrazione del Sudafrica. Così anche i pezzi successivi sono stati registrati un po' con mezzi di fortuna, comunque un po' i soldi, sostanzialmente quasi delle autoproduzioni. Tutti questi pezzi diciamo, risentono un po' della qualità sonora, non è questa gran qualità, cosa invece che è possibile notare per esempio in Nyamfenfe, la canzone che avete ascoltato precedente, e la successiva che è Grooving Jive Number One, che è cantata ed eseguita da Noisy Canile e Joburg City Stars. Anche in questo caso si tratta di un cantante, di un artista che ha iniziato a suonare la mbakanga, il genere appunto precedente da cui poi si è sviluppato Township Jive, che poi successivamente, proprio appunto quando ha iniziato ad avere un gruppo proprio, un'orchestra in questo caso proprio, Joburg City Star, ha fuso, diciamo, una sorta di fuso tra mbakanga e danza Zulu e Township Jive. La particolarità di Noisy Canile, oltre al fatto che è appunto un cantante che proviene direttamente, ha abitato e ha cominciato a incidere a Soweto e che fa uso di uno strumento molto particolare, almeno nell'ambito degli strumenti, cioè non è, diciamo, uno strumento tradizionale sudafricano, cioè il violino. Il prossimo pezzo è appunto Grooving Jive o Jive Number One, Noisy Canile and the Joburg City Star. Hey machita, hey, I grooving number one in Bunene pe. Hey Google, yes or no? Thank you. Noise Canile e i suoi Joburg City Star con Groovy Jive Number 1, l'essenza del Jive, del Township Jive, del TUG, un genere musicale e un tipo di danza delle township sudafricane. Prima di lasciarvi e salutarvi, vi volevo dire che allora la storia di District 6 l'abbiamo presa dal libro District 6 scritto da Richard Rive. In italiano per edizioni Lavoro, lui meticcio, nato e deportato appunto dal District 6. Poi vi volevamo dire che per nostra indisponibilità le prossime due settimane non faremo la trasmissione in diretta, ma rimanderemo la seconda e la terza puntata, quindi se non le avete ascoltate la replica della seconda e della terza puntata, quindi se non le avete ascoltate è l'occasione giusta. Buonanotte a tutte e tutti, alla prossima.